momento sono, mi sembra siano le 8:08 esattamente, 8:02, 8:01, va, magari già entra qualche durata, già entra, va, non problem, riprendi Giuseppe. È incappata che, sì, ho girato adesso lo sguardo anche all'orologio, in effetti, sì, sono le 8:01, dai, il tempo magari di rientrare la gente a casa, darsi una sciacquatina così e poi sicuramente entrano, dai, senza nessun problema. Gatta di Rogero, gatta di Rogero, tanta benevena, riprendi tu Giuseppe e fai girare. Cappa di positivo. Io questo modulando ogni tanto giro la testa verso la televisione, ci sono i nostri bei signori ministri, guarda, che stanno d'un bene seduti, guarda, e sono uno più grasso dell'altro guardandoli bene. Così è Mario. Cappa, già, sai quanta faccenda esce da tutte quante quelle ministri? Giuse. È una cosa che non si crede, questi nostri parlamentari. E poi quando sono tutti riuniti lì a Montecitorio, a Codo, mai che ne scenda un aereo di su, mannaggia. Perché quando devono passare di sopra per la paura lì, li fanno tutti quanti dirottare, li fanno girare a largo. Cappa di positivo, Mario, non sono manco così scemi, no, che li fanno passare sopra. Sulle case dei poveracci, come è già successo, possono cadere, ma sulla testa di questi miserabili che ne cadesse manco uno. Purtroppo è così. E io dico sempre, muoiono tanti babbi di famiglia, muoiono tante brave persone, e non dico io che non muoiono mai. Mario, il detto sai com'è, io me ne ricordo uno, e dice muore la pecora e muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ne rompe i coglioni, non muoiono mai. Cappa, bella questa, eh? Hai capito Mario, ed è proprio vero, però purtroppo anche nella realtà, anche se è un coso, un detto questo, però purtroppo funziona così, perché se muore uno di questi deficienti che abbiamo qui in televisione, ne riempiono il giornale per settimane intere, muore un padre di famiglia sul lavoro, non ne parla mai nessuno. Ne parlano il primo giorno, il secondo è già tutto dimenticato, invece quando muoiono quelli lì o se poco stanno male, che gravi che sono andati al civile a farsi controllare, c'è questo, c'è quello, poverino, chissà niente mi ha arruinato. Cappa Mario, tu figurati che per la mensa della scuola materna della bambina, no? Mi stanno spulciando dalla testa ai piedi, hanno voluto il modello cubo, hanno voluto non so cosa, adesso è rientrata mia moglie stamattina, le hanno voluto lo stato di famiglia, e di taglio, ma lo fanno prima di dire, mettete un tot a te, fate 50 euro al mese che c'è da mettere e fanno anche più bella figura. Perché se tu guadagni di più, secondo loro è giusto che paghi di più, non è che dicono come mangia il ricco mangia il povero, quanto è? 30 euro, 20 euro, quello che è, e basta, cioè cosa stai a cercarmi, cosa guadagno, cosa non guadagno, perché mi devi fare tutti quanti questi raggiri, documenti, perdere tempo da una parte, perdere tempo dall'altra, quanto è tanto, boh, basta, mio figlio mangia come tuo figlio, tuo figlio mangia quanto il figlio di Berlusconi, né di più né di meno, cos'è che i bambini li devi trattare tutti allo stesso modo, non devi fare le differenze, no, perché quello sai è il figlio di Berlusconi, bisogna, ma non me ne si la mise. che ho fatto io, no? Ho detto, perché ci devono essere bambini o famiglie di serie A o di serie B? Quello che portano in mensa, lì, per, che ne so, per 100 bambini, porteranno 100 primi, 100 secondi e 100 frutte per questi bambini qui. Non è che portano 100 primi uno diverso dall'altro perché quello è più ricco dell'altro, hai capito? Infatti ho detto, ma che lo fate pagare uno? Quanti? 50 euro? Ma io li metto tranquillamente 50 euro, senza stare a fare tutte queste trattive, mi capisci? Perché, come hai detto giustamente tu, lo fa, come mangia il ricco, ma anche, mangia anche il povero alla stessa maniera, ne tiene meno mi Mario quando siete tutti lì dentro. Per il positivo, no, a me mi sarebbe più piaciuto, a parte il pagamento uguale per tutti, perché come mangia uno dei bambini non mangia anche l'altro, se fossero stati un po' più attenti ai bambini che hanno problemi, perché ci sono bambini che purtroppo hanno delle allergie, però quello lì non lo chiedono mai a nessuno. Perché sarebbe giusto che un bambino, quando se va a scuola, chiamassero i genitori e chiedere se il bambino è in perfetta salute, se è fabico, se è diabetico, se ha qualche allergia. Invece quello non lo chiedono mai. Chiedono solamente per i soldi. Solamente quello gli interessa. Poi per il resto non me ne frega niente. Cappa Mario, perfettamente d'accordo con te, guarda, il discorso che hai fatto non fa assolutamente una grinza perché sono la pura verità. E in effetti, guarda, è quello che ci lascia anche un pochino così sconcertati, con tutte queste malattie che stanno venendo fuori, si stanno accanendo su questi due soldi che riescono a spillarti in più e non vadano alla salute dei bambini. E io mi ricordo quando ero ragazzino, quando ho fatto le elementari su via Alessandro Lanzoni, io mi ricordo che adesso non so quante volte alla settimana passavano quelli del comune con la bombola dietro e con lo spruzzino e disinfettavano tutte le stanze, disinfettavano i corridoi, era anche se dava quell'odore brutto, no, di quella medicina lì, però alla salute ci tenevano molto di più. Adesso ci gira, come hai detto che era giustamente tu, non ti chiedono se uno è fabbrico, non ti chiedono se uno è asmatico, non ti chiedono nulla, ti chiedono soltanto di portargli il QD o il 730 per vedere che cosa ti possono spillare. No, io quando ero piccolo tenevano la scuola chiusa per le votazioni, perché poi dovevano disinfettare, dovevano fare, però durante l'arco dell'anno andavano la domenica o il sabato sera, quando non c'era la scuola che si chiudeva, andavano e davano la medicina, in modo che lunedì tu andavi ed era già tutto quanto bello disinfettato, tutto bello pulito, perché allora le bidelle entravano lì a scuola, facevano le pulizie e a quando arrivavano i bambini era già tutto quanto bello pulito e profumato. Invece oggi di tutto quanto questo non hanno fatto più niente. E infatti ogni tanto si sente qualche mamma disperata che non fa altro che correre in farmacia per togliere le centinaia di pulci o di pilocchi che si ha portato dalla scuola materna o da scuola i propri figli. E provami, sia una persona che conosco io qui, che abita nella nostra via, che era disperata, tu devi vedere tutta la roba che ha buttato e in che condizioni è rientrata la figlia dalla cosa, perché è in terza elementare, no, questa ragazzina qui, tu dovevi vedere la scena del giorno, che cos'era questa donna e cosa tutto ha passato per poter disinfettare la casa poi. Non me lo posso immaginare. Beh, e poi un'altra cosa che mi disturba è che è un poveraccio, anche se abita lontano, se abita, nessuno va a prenderlo, ci devono pensare i genitori. A Rizzinga li andano a pigliare il comune, gli mandano lo scuolabus per pigliare i bambini, gli zingarilli, per portarli a scuola, per dargli un pochettino di istruzione e di civiltà. Però e vado a vedere un ricardo lontano, si deve arrangiare. K Mario, io li ho visti, c'è l'accampamento degli zingari di Viale Porto Torres, proprio appena prima della seconda rotatoria, no? Di fronte a Vico, diciamo dove c'era prima la Nuova Sardegna, no? E tu devi vedere la mattina presto quando passo, tu devi vedere lì, tranquilli, pronti per prendere lo scuolabus. È gente che abita in periferia, che non ha la possibilità, la moglie, di avere la macchina perché l'ha presa il marito per andare presto a lavorare, o se lo devono fare a piedi o devono prendere il tram. Capo, perché prima con qui vengono gli zingari che gli stranieri, dopo veniamo noi, cioè noi siamo la ruota di scorta praticamente, è come lavoro. Se è un extracomunitario c'è la precedenza, se invece uno di noi gli zio Guiscio gli anda dalla mamma e gli ammende a casa di la mamma, è compreso. Cioè qui c'è una brutta cosa di ragionare che per carità lasciamo perdere. Capo Mario, hai perfettamente ragione, guarda, vabbè, qui in Italia le cose funzionano come funzionano, dai, anche qui muri di dottoranti, e forse per quello anche, secondo dove andiamo ci prendono anche per il culo, cosa ci mancherebbe altro. Prendi tu, dai, unisciti anche tu al discorso e dici cosa ne pensi di questa situazione strana che si sta creando. Purtroppo a me dispiacciono queste cose, perché noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto, con la scusa che loro sono nomadi o zingari o compagnia bella, sono super agevolate, non deve esistere questa cosa, assolutamente no. E ritorno al discorso tuo, come mai loro vengono presi dall'autobus, per dire, dalla scuola bus, e noi siamo l'ultimo carro, l'ultima ruota del carro? Cioè è una cosa che non attacca né al muro e né a nessun posto, capito? Io sono contrarissimo a queste cose. Non solo di quello, tu fino adesso tutti quanti questi stranieri polacchi che ci sono, io non è che ce l'abbia contro nessuno, perché per carità me ne guarderei bene, io non ce l'ho contro nessuno, però tu adesso mettiti al posto di quei polacchi, vai tu in Polonia a chiedere le limosine ai semafori a vedere se te lo fanno fare. Invece qui si mettono a fare il catturaggio ai semafori, vengono e ti vogliono lavare il vetro della macchina quasi di prepotenza per dargli dei quattrini, e vengono, si prostituiscono e nessuno gli dice niente. Cioè perché li autorizzi queste cose? Come la trovi? Cosa stai facendo? Marchetta va benissimo, va bene, parlo con lei, dai in questura, tu domani a casa tua. Invece non lo fanno, perché non lo fanno? Vuol dire che hanno interessi, boh, non lo so io, perché cioè trovi una che è dal posto, perché magari ha avuto la sfortuna, ha avuto la disgrazia, chiamala come vuoi, e si deve, niente, è adescamento, quello, l'altro, cioè con le mele che quando passi nella via che si mettono a voce, amore, e a quelle lì non gli dicono niente, cioè non ho capito perché deve funzionare per metà. Kappa, pienamente d'accordo con te Mario, la legge è sbagliata, confermi Giuseppe. Kappa Pacchetto, confermo in pieno, anche perché c'è da ricordare una cosa, che il sussidio che danno agli zingari, zingari, ai nomadi, dai, zingari mi sembra un po' così, dai. Non so se voi avete mai notato giù alle poste che ci sono a Predanieta, dove c'è coso, dove c'è l'Eurospin, adesso non mi ricordo cosa ci sia lì vicino, giusto per farvi un'idea, voi passate lì e vedete cosa tutto c'è il sabato mattina quando gli danno l'assegno a questa gente qui, però l'assegno glielo dà il comune, però a me che che sono disoccupato il comune, lo sai cosa mi dice? Di andarmene a far culo, perché manco stanno a guardarti, mi hai capito? È positivo. È così, maledizione, è tutto sbagliato. Io guarda, non ho parole da dire perché non ce ne sono. Stiamo diventando una cosa molto molto assurda, veramente. Riprendi, vai. Cosa vuoi riprendere? Meglio che chiudiamo il discorso, perché sennò qui sai cosa ci sarebbe da fare? Organizzare una bella telecamera, inquadrare tutte quante queste cose storte che ci sono e poi metterle tutte sul giornale in modo che lo sappiano a che punto siamo, perché purtroppo, guarda, sta diventando, cosa ti posso dire, una cionfa, perché io dico questo, come aiuti lo straniero, aiuta anche l'italiano. Io quando mi ricordo di quella donna che si è lasciata morire perché aveva vergogna, sai cosa vuol dire? L'orgoglio, aveva vergogna di dire che aveva bisogno di un piatto di pasta, si è tagliata a morire in fame e in un comune a giudizio dice disgraziati, ma non disgraziati perché disgraziati nel senso offensivo, disgraziati perché loro sono venuti dal loro paese e vengono qui e quasi quasi vogliono fare i padroni, cioè ne manca poco che ci dovremmo fare a pure il pantalone da altri segnetti. Ma se questo c'è tanto l'Italia che non vuoi crocifissi, non vuoi quello, non vuoi la chiesa ma vuoi la moschea, ma raccomandare, vai a dire, tu sei venuto qui come straniero, sei lavorato, va bene, ti piace, non devi accettare per quello che è, non che tu pretendi che vuoi questo, che vuoi quello, quello non ci deve essere, non mai devi tu raccomandare in casa mia, ma non mi dici da un fianco, se lo facciamo noi quello che loro fanno qui ti ammazzano subito. In una moschea e di rampani tutto l'altra terra, siete fanatici, oppure prendi il Corano e cuore la terra e dimmi se ne ci vivo da lì. Ma manco per soldi, ma io lo so, guarda che io gli ho girato un po' quelle, so queste cose, ma poi senza andare lontano, se hai sentito ieri il telegiornale che è stato il presidente francese che ha detto noi non siamo un cestino della modesta come l'Italia, che tutti gli altri vengono dai nomi. Quindi vieni, lavori e paghi le tasse, punto e basta. Ti piace? Va bene, non ti piace? Da dove sei venuto? Allora andiamo a pigliare l'aereo e vai. Vedi, quello è ragionare, non come qui, ma noi qui siamo aperti a tutti. Vi già abbiamo una fammi, no? Licenziamenti, casa, te, a manca. E in più ti arriva gente da tutte le parti, ma tutta questa gente dove la stiamo mettendo? Io guarda, insomma io sono meravigliato anche qui di Sassari, io dico solo una cosa, non per voler male a nessuno e attenzione, però c'è quel piccolo accampamento qui all'Agraria, appena prima del passaggio a livello, adesso ormai c'è anni dentro la pineta, no? E ci stanno questi ragazzi, c'è anche qualche ragazza, no? Ma io dico questo, se fosse successo a me, Mario, come ce ne sono tanti di poveracci, di gente per bene, che senza una casa, mi stai seguendo, e ti regalano una tenda, ma anche una canadese, la metti lì dentro per passarci la notte, vengono con i manganelli e ti battono a diegno in chivi, Mario, ma non solo di rimanerci anni come ci sono questi lì, no, questi ragazzi che se l'hanno fatta adesso, se tu lo vedi hanno messo anche gli incerati sopra per non cadere l'acqua, se hanno fatto una casetta in legno e tutte quelle cose lì. Ma non solo io dovrei, ma manco 5 minuti se ci vado io, Mario, se mi buttano fuori di casa, mi hai capito? Ecco dove io, che un po' me la prendo, mi stai capendo? Già ho capito perfettamente io, sì. Io ho capito perfettamente, solamente che questa gente qui, tu quando sei venuto per lavorare, allora perché ci sono passato pure io. Io quando sono andato in Francia sono andato con un contratto di lavoro, se no in Francia ma che fanno entrare se non c'è un contratto di lavoro? E invece no, ti butta buono, via, entra, vai, rifai, hai capito? Cioè non esiste. Tu stai lavorando, ecco, ce l'hai un contratto di lavoro, fammelo vedere. Ma io so. E io vengo con mi dico, viene di denaro direttore a Passiti, mi pensa muro. Capito? Però non lo fanno. Io non dico di non farli entrare, farli entrare, li fai lavare, li fai pulire, li dai da mangiare. Poi, cosa sei venuto a fare qui in Italia? Dice, ma vieni con me, messo da una parte. Tu cosa sei venuto a fare? Ce l'hai il permesso di soggiorno, il permesso per lavorare? No, vieni con me, ora in una base. Ma voi avete abbigliato un bel aereo. Se hai tutti i piedi sopra, non avrebbe alcune vai. Cioè, se tu vai in Arabia, se tu vai in Polonia, se tu vai dove vuoi e non c'hai un contratto di lavoro, ti sicuramente vuole fare vedere a culo, perché non sanno da dove vivi, capito? E invece qui, no, dai, poverino, che cazzo poverino? Se io vado là e guardo una donna, ma basta mi metto un cane, perché non vogliono che tu guardi le loro donne, capito? Ma a parte quello lì, se non c'hai un contratto di lavoro, se c'è il contratto di lavoro devi restare in vivi, se no ti ammazzano come te cane non attessi, non puoi fare niente, cioè tu devi lavorare 15 ore al giorno, finiti i 3 mesi, quindi ti mandano a casa, sai, un mese da poi dalla pace a casa 3 mesi, però in vivi non puoi uscire, non puoi fare nulla. In Germania è la stessa cosa, in Francia è la stessa cosa. Tu vai lì, se per me stesso giorno ce l'hai, stai lavorando dove, da chi, come, e devi essere tutto quanto in regola, se no non ti tieni, cioè a fa capito come ti va se ne noghi, non te ne va se ne va. Cappa Mario, perfettamente d'accordo con te, anche perché anche questi di colore, dai, questi che siamo abituati oramai a trovare sulle spiagge, no? Che non fai tempo a andare via uno che hai l'altro dietro, pare che sei al casello della tangenziale di Coso, no? Tra Trezzano sul Naviglio e Milano, no? Come entri lì in tangenziale, dopo 5 km c'è il casello e cominciate a fare 10 km di fila. Così sono loro, non fa in tempo andar via uno che sotto c'è l'altro, il semaforo è lo stesso, ma io dico questo, sei a contentare tutti quanti, ma quanto ti devi mettere in tasca? E vai a farti la spesa e te la ciappi con i gazzetti, con l'accendini, con un coso, non gli prendi niente e adesso hanno preso il vizio se gli puoi lasciare il carrello, ma nel carrello metti un euro, ma metti caso che questi qui in una giornata o in una mattina riescono a farsi 10, 20 carrelli, sono 20 euro così scese dall'aria, cioè io dico questo, ma Cantaglienti deve accontentarsi, vuol sapere lì, cosa ci vuole il portafoglio come ce l'aveva tutto di chi Sassonetto? No, io guarda, cioè sino che tu gli compri un paio di case, sta bene o male, sta lavorando, non sei obbligato a comprargliele, però a me quello che mi dà fastidio è quando sei lì che insistono, se tu gli dici di no, no e buh, e invece e dai cosa, ma vai se devi andare, se ti dico che non mi servono, oh, mi servono, io per comprare da lui un paio di case, vado in un negozio di coso, di come si chiama, di intimo, vado e me le compro, se mi servono tante vado e me le compro, cioè noi gli sono gli attendi agli andrei sulla ripilati che tu sei sotto nei barcheggi e poi questo me ne deve tirare. dare i cassetti o i mondani o l'accendino, quindi ogni tanto, perché se lo fai tu che non hai una licenza, ti arrestami, perché stai facendo un lavoro senza permesso. Posso dire la mia? Avanti Gianni. Cappa, io una volta ho visto in via d'Italia un ragazzo di Sassari che aveva una bancarella di queste cose qua, e la gente che voleva si fermava e comprava, non è che fermava nessuno. Beh, sono arrivati i vigili che hanno preso tutto quanto, questo poveraccio non c'aveva manco la volo. E questo signore le ha detto, cavolo, invece di attaccare la gente di qua, perché non li prendete, non li pigliate pure a letto. casa, ma niente, in gamba, tranquilla, veramente. Ho conosciuto, ci ha fatto conoscere la moglie, cioè gente come il comune, come lui. Guarda, quando viene mi fa anche piacere lasciarlo dentro del carrello, perché anche se ha venduto cosa mi non fu, però dentro del carrello lui glielo do sempre, capito? Ma anche altre volte glielo lascio, giusto per non stare lì a rompermi la scatola. Però, cazzo, cioè, non è che poi, se tu vai in 4 negozi, 5, 6, 8 negozi al giorno, a ognuno deve dare il carrello, cazzo, deve dire la lì. È quello che non riesco a capire. Massimiliano, dove sei? A casa adesso? No, negativo, in macchina sono. Adesso sto passando dalla 131, là. Campa, adesso come ti arrivo nel radio di Santiago? Vabbè, di Santiago è 9:30 qua. La radio è perfetta. Cava, cava. Invece nell'altra posizione mi senti male. L'altra posizione? Oh, Massimiliano. Con questa, guarda, Massimiliano. Ehi, sembra che sia compresso, capito? Mi stai spingendo troppo. Sì, avanti. Massimiliano. Buonasera a tutti. Chi è che si può spostare, non so, al bici un attimino? Vendere un accendino, ma se ti vedono appena una pena che ti stai soffiando il naso, vengono a chiederti se quel fazzoletto è tuo oppure se lo stai vendendo. Ma ti rendi conto a che punto stiamo arrivando qui? E però fanno bene anche i nostri, quando qualcuno qui lo prendono anche a calcio in culo, perché così non si può andare avanti. Arrivati a un certo punto lì, anche noi abbiamo un attimino di dignità. Cavolo, che io per riuscire a tirare avanti la baracca, per diciamo per portarmi un pezzettino di pane a casa, essendo disoccupato, devo andare col coltello in giro minacciando uno all'altro, ma non ci penso nemmeno. Come lo fanno loro di vendere la roba? Sono anch'io capace di andare a comprarmi 10, 20, 50 cendini, 3 magliette, 4 pantaloni, ecco, e mi posso fare anch'io tranquillamente quello che fanno loro. Soltanto che a noi ci castigano subito, e non c'è cosa, perché poi ti dico anche una cosa, a quelli non gli fanno niente, a te se ti trovano, ti sequestrano tutto e poi ti portano anche in tribunale, devi pagare anche le spese davanti al giudice. Io già lo so come funziona, io lo so perfettamente come funziona, sono loro che invece lo sanno e fanno gli ignari, cioè dice lascialo va poverino, chi non prende male a nessuno, lo so che non sta facendo male a nessuno, però sta facendo male perché sta importunando, sta praticamente sfruttando dove sta mangiando, che dopo di un poco, se tu lo lasci fare oggi, lo lasci fare domani, e che cosa ne abbiamo ottenuto? Che tutti quanti vogliono le moschee, che tutti quanti non vogliono i crocifissi nelle scuole, che tutti quanti non vogliono questo, che tutti quanti non vogliono quello, cioè tu sei straniero, vieni qui, anzi di essere grato che ti stanno dando la possibilità di guadagnarti qualche soldo, di non stare tanto male, bene, puoi raccomandarmi, ma vattene via, se non ti piace, prendi l'aereo e vai, che cosa vuoi da me? Marco, questo qui non lo devo dire io, lo devono dire i signori che ci stanno amministrando, a chi? A noi, hai parlato di ritardo, non hai detto che non hai della televisione, ti mando la multa, sei moroso, sei misero, sei indo, e vedi, se tu li vai a guardare, in casa loro c'hanno tutto, e guarda se pagano tasse, guarda se c'hanno il canone della televisione, vattene, non viene male, ne piace, nessuno manda a dire nulla. Capa Mario, perfettamente d'accordo, e ossia che poi vanno a pagare tassa mondezza a me, gnogno. Ma cosa vuoi che ti dica? Io quando sento tutte quante queste cose sto male perché io dico questo qui, cioè dove devi vedere la luce vedi il buio, così lo stesso l'altro giorno io stavo lavorando, sono arrivato col camioncino qui a Sasserie, non fuori, e sono arrivato e c'era il parcheggio per carico e scarico merci. Arrivo lì e siccome sapevano che io stavo arrivando, qualcheduno ha pigliato e ha messo delle sedie. Io arrivo lì e c'era questo bel fuoristrada parcheggiato. Adesso stavo pigliando pure la parte grande, voleva che ripagnassero due graffietti che si è fatto con le sedie, perché lui si è posteggiato lì e si è graffiato la macchina appena appena con delle sedie di plastica e voleva il danno pagato. E gli dice a me, o ti mandi o se no ti serve mandare. Ma guarda che io sono vigile urbano, bravo testa di cazzo, sei vigile urbano, anziché fare vedere che almeno tu le rispetti le regole, tu hai fatto lo stronzo più degli altri che ti sei parcheggiato, come se vede nelle gadrie, e io che devo scaricare l'ho voluto posteggiare, il camioncino 200 metri avanti. tocchiamo quel tasto lì dei vigili, che quella è la categoria più brutta che abbiamo qui a Sassari, e non se ne salva uno. Ma voi disegnare i carabinieri, io ti so uno più forte dell'altro, ma credimi, te lo dico, guarda, a cuore in mano. Ma già lo so, tutti di una pasta, sono tutti, loro hanno la divisa, pare di non ridotti a nessuno, ci sono diventati, chissà cosa, da voi non sono nulla, anche se vogliono una ciappa, ne rubineremo una ciappa. Ehi capo Mario, tu figurati che io sono in causa già da 2 anni per un incidente che mi hanno provocato loro qui all'angolo di via Bugino, no? Ero con mia moglie e stavamo andando a prendere delle scarpe per la piccolina, no? Per Veronica. E mia moglie ha fatto in tempo a attraversare perché io ho trovato un amico, no? Ma roba di pochi secondi, il tempo di salutarci, no? E lei si è fermata lì nelle vetrine di passi in più, perché una volta che attraversi per andare al Ponte Rosolino trovi passi in più. Avevo io scattalumino rosso, no? E cosa ho fatto? Ho preso e mi sono fermato lì sul marciapiede. Non so se hai notato, hanno fatto quegli scivolini, deve essere per gli handicappati, quelle specie di cose che le mattonelle vanno a piano del manto stradale, no? Se non sono attento, con la coda dell'occhio mi è piombata questa macchina sul marciapiede, no? Ed era una macchina dei vigili urbani e stava guidando una donna. E mi ha preso in pieno il piede, mi ha fratturato le dita. Beh, non sono di soccorrermi, non sono di scendersene, mi hanno preso a parolacce. Me ne hanno detto di beato porco. Tani gli era tua macchina, ma hanno mollato in terra e se ne sono andati. E non li hai rinunciati? Sono in causa già da 2 anni e nonostante tutto che ho anche i testimoni, Mario, hai capito? E questa qui è andata a dire che non mi ha assolutamente toccato e lei ha denunciato a me, a te le immagini? No, a me non è successo uno o l'altro giorno, stavo salendo lì in via Lamberto ed eravamo in file parallele. Adesso io veramente non mi sono accorto di niente, perché io ero nella mia corsia, tranquillo, bello, rilassato, ero anche fermo al semaforo, e niente. Sono partito e a un certo punto ho sentito questa macchina suonare, fare. E io per gli altri mi sono fermato e ho detto, boh, cosa è successo, cosa non è successo. Dice, lei a me mi ha causato questo danno allo specchietto. Ma se io ti tocco, che stiamo camminando in parallelo, toccandoti, ti porto la roba in avanti, giusto? E il corpo lo pigli dalla parte dove io vengo. E invece lì si va via, lo specchietto bucato, dove aveva bucato di bianco. E la seghiera si è allagata e si è aggiunta al ghiaccione mio. E io mi sono fermato e siccome io quando mi trovo calma e coso, rilassato, ho detto vabbè, la portiamo in carrozzeria da un amico e la facciamo mettere a posto. No, lei a me mi ha causato, io a lei non gli ho causato niente, cioè prima glielo volevo mettere a posto, ma nulla, e gli ho detto anche di andare a denunciarmi. Io voglio da Ottolini, perché la macchina l'ho comprata lì, ma tu non vai e fai, come ti pare ti piace, io te la volevo aggiustare, perché mi volevo far vedere gentile. Io se mi tu sei vendere la prepotenza, vai, non ti piace, vai, non si eccia. Quanti il brecco, se non sbaglio, Capri 2. È ammaletta, sto usando il mantilastafolo metti copia a lui. Avanti Mario per Capri 2. Fai un passaggio a Capri 2. Allora, Santiago 7 e radio diciamo 4 là, un po' bassino sì come radio, però io ti ascolto benissimo, bello squillante, e considerando anche la lontananza, giustamente. Comunque io ti ascolto benissimo. Capri 2, niente, quando parli alzo un pochino il volume e riesco a copiarti benissimo anch'io. L'unico inconveniente è quando magari quando parla qualcuno mi devo ricordare di abbassarlo, tutto qui. Poi per il resto è tutto OK. E dovremmo avere anche l'amico Falchetto qui in modulazione, mi sa ce ne siamo anche dimenticati. Avanti Falchetto per Capri 2. L'amico Falchetto non risponde, ma che non si siano spostati, si sia spostato anche lui là Mario. Sicuramente sono sul 30 che stanno provando quelle radio, con Gianni Doppio Rum e con Massimiliano credo. Io sto qua. E chi sei tu? Io sono Gianni Doppio Rum. Ah, sì, sì, sei tornato. Perché tu casi ti abbiamo chiamato ma non rispondivi. Capa di positivo. Riprenditela tu Gianni, è entrato Capri 2. Capa, ciao Capri 2, mi hai sentito? Più. Ehi, io ho parlato, non mi avete sentito? Dove sei già? Mi sto facendo la comicina con Pierpaolo. Dai, allora me ne vado a casa. Pagalo. Andrà bene. A non sbidere. Volevo far vedere una cosa, vabbè. Pierino, ci sei. Capri 2, l'hai sentito Gianni Doppio Rum ti ha salutato. E se ne salto il parlamutile qui, non lo ascolto, Non so se mi sta ascoltando, ho sentito il Natalino però. Natalino, mi ascolti tu? Sì, ti ascolto Gianni, ti ascolto, non c'è problema, buonasera. Buonasera Natalino, ho adattato il microfono da capo che avevo sulla LAN 78, com'è la modulazione? Buona, io sono in macchina qua. Attenzione, 10 minuti di bianco per me, ci si sente dopo. Gaffa. Arrivo. Già, ma sei ancora a casa tua? Gianni, Doppio Rum, Natalino ha chiesto se sei a casa tua. Gava, gava. Ehi, sono qua, amico, vado a prendere Pierpaolo un attimino. Deve venire Pierpaolo a prenderti, allora aspetta, sto arrivando un attimo, oggi vedi una cosa. Hai sentito Natalino, Gianni? Avanti, Natalino. Ho detto, se deve venire Pierpaolo a prenderti, così vedi una cosa, tanto sono vicino, sono lì, vuol dire. No, non deve, sono andato io a prenderlo a lui. Tu sei andato. Scappa, siamo già partiti. Ok, dai. Avanti Mario. Ehi, cappa, cappa. Non vi sentivate tanto bene, là. Posso lo tirare fuori piccolino piccolino a Natalino? Riprendi Doppio Rum, o fai riprendere a Vela? E avanti di Vela. Yeah. Ma mi senti Mario? Sì, fino adesso sono sordo, non sordo. Ti ascolto tutti. Ma capo, forte chiasso da questa parte, ma chi c'è Mario, tu e voi? Sì, c'ero io, Giuseppe, c'era Vela, che stava dicendo che aveva abbinato il microfono da tavolo al caparazzo e stava chiedendo i controlli e non so se c'è ancora. avanti, Capri 2. Gianni in zona d'ombra, va. Ti ascolto io, Gianni, non c'è problema. Sto per arrivare a casa, dai. Ok, Natali, ma come fa la radio di questo apparato adesso? Benissimo, va bene. Sì, perché io ho preso il microfono da tavolo, quello che dicono che sfonda, che fa un sacco di radio, l'ho adattato alla 78, per avere il baracchino completo con 4 però non lo so come sto uscendo. Mario, ti arrivo a bomba con questo come ti arrivavo le altre volte. Ma io ti ascolto Santiago 7, ti ho detto, è una radio di 4, sei leggermente più bassino, niente, e io e te come ti sta arrivando in questo momento? In questo apparato, ma sempre fondo scala, io ho un speaker di quello a trattini, hai capito? Non è all'altezza qui lo speaker, c'ha i trattini, comunque, diciamo, mi avete a bomba, rimbomba tutta la casa, devo proprio staccare l'autoparlante esterno per ascoltarti. Ok, e quello mi interessava che non ho fatto un buon adattamento, ma a questa radio, è amplificata la voce, con te. Gianni Capri 2, dammi un controllo alla radio vero, me ne spero ricevi, copia. 9 più 20, 9 più 20, mi attacchi, arrivo. Ma io di radio come arrivo, mi interfaccio. Capa, arrivi bene qua di radio. Sei 5 del radio, dai. Non so se Mario mi ascolta, è la verità. La vasca che te ne scende, Rierpa. Cazzo, non ti ascolto. Ascolta lui, Santiago 7, Radio 4, e non ascolta te. E cosa c'è? Io pensavo che non mi ascoltavi. Dillo a tutti, provate di gridi. Oh, succede delle volte, sai. L'altra volta potrebbe esserci un difetto, una cosa, non lo so, ma mi ascolti come sempre. Gatta di positivo, 9:20 Radio 5. Arriva, 9:30. Beh, parlato Enrico, poi c'è anche la Giuseppe, Giuseppe avanti. Giuseppe non c'è, sarà Magheti. Ah, boh, non lo so. Sicuramente si è spostato. Niente, avanti Barra Agricola. Allora, qua c'è un callo che spacca la pietra. Cosa c'è? Un callo che spacca la pietra? Allora, qua c'è il callo che spacca la pietra. Come la tocco si spacca tutta. E fa briciole. Ehi, fa passaggio. Gabba, senti come gira questa radio, copia! Oh, non sono le mie orecchie, però io vi ascolto sotto, non ho capito il motivo. Io ti ascolto sotto, Perpa. Gabba, dove sei tu? Dall'altra parte della città. Dall'altra parte della città, io sono sulle 131. E io ti ascolto un sacco, ti sto dicendo, dalla radio di Gianni. Come ti sento? Sento... che senso? Che senso? Cosa vuol dire sacco? Ma non stai spingendo troppo, cosa vuol dire? sì, 9 più 30, però esatto. Capito, Debba? Sì, sì, ho capito. Infatti lo stavo dicendo anche qua. Vabbè, però un segnale non viene a fare di giuro, eh. Ecco, 9 più 30 qua. Allora io sono piccolino piccolino. Non mi ascolti, ma se ne intanto arrivo giusto lì alla girata dall'angolo. Bene, dai, ragazzo di belli, chiudo io se come, che qua ci cerchiamo il parcheggio e dobbiamo scendere, dai. Saluto a tutti, Pier Paolo, la mattina fammelo ascoltare con la gente, Campo di veloce, non ce lo faccio ascoltare, non ci sono problemi, dai. Ce la risentiamo domani mattina, allora, dai. Buon proseguo di serata. Stavamo dicendo se è sabato sera andiamo a mangiare qualcosa lì alla Sassarese in qualche trattoria, oppure come volete voi, se vi volete aggregare sia tu Massimiliano che anche Vera, ed era riferito anche a Doppio Room. Poi eventualmente date conferma se vi va bene oppure no. Vai Massimiliano. Guarda, io c'è partenza, mi dispiace ma non posso venire perché per sabato c'è un impegno. Poi gli altri non lo so. Mi dispiace, però se organizziamo un'altra volta va bene lo stesso. Per questo sabato sono impegnato. Cosa Massimiliano, buon proseguo, buon tutto, dai. Ce la risentiamo alla prossima. Vai, Vela. Vela, io ho salutato, ciao, Massimiliano. Ci ascoltiamo la mattina. No, io devo ancora vedere qualcosa, non lo so ancora. Magari ci sentiamo ancora oggi, cos'hai? E martedì, domani, mercoledì, magari me lo dico domani, dai. D'accordo. Dottor Ru, vai per Massimiliano e poi mi dai la risposta se va bene. Io non lo so perché forse questo sabato dobbiamo fare un'altra cosa. Non lo so. Adesso vediamo, anche per gli altri, poi vediamo un po'. Adesso ti posso dare una risposta sicura. Perché per questa sabato avevamo un impegno, io, Giuseppe, Natalino, Pierpaolo e Antonio, dovevamo andare fuori. Ma Giuseppe non me ne ha detto perché stavano parlando con Coso, con Falchetto, e hanno detto che lo dicevano pure a te, non mi hanno detto niente, che loro avevano già questo impegno con te. Infatti mi hanno detto dopo glielo diciamo, però visto che Giuseppe si è assentato, te l'ho chiesto io. Tutto qua. Come mi senti nel radio, Gigi? Sazzo? Oh no, Al piano 3 mi arrivi, la radio è buona, la radio è di 4. Arriva perché è così. E sono delle modifiche che fanno qua e purtroppo spingono di più, dai. Infatti con due matti mi sento la dappertutto a me. Ma ogni giorno con cacciavite di ferro, no? Thank you. sono rimasto qui solo, soletto. Ok, parlo insomma, è buona questa. Ti stavo dicendo, Mario, è amplificata la radio, convegni? Cappa, poco fa quando hai detto, aspetta, si sentiva anche il tuo respiro. Sono un po' affannoso, ma io mi sono messo male con questa accidente di influenza e guarda, ho passato tre nottate in tutte, da sabato a di notte ho dormito male. E adesso mi sono riprendendo, ma hai capito, non voglio... Infatti c'ho un po' di affanno, anche dopo mi ha detto, ma cosa c'hai? Ha detto, devi camminare a piedi, perché c'ho una certa scarsa, e purtroppo, ma io lavoro seduto, e capito, movimento le faccio, prima quando ero all'impresa e non le ore. Gappa, io va bene, va, piano piano, Capri, piano piano si mette a posto tutto. Comunque sei l'unico che è il più forte che arrivi alla mia passione. Gappa, sono contento, ma a me il segnale non mi interessa, a me mi interessa sempre la radio, perché la radio è quella che comanda tutto. Attenzione sul 21 cambio. Sto mettendo ieri sera con Roberto Quadrato. Questo è un altro, infatti Roberto, questi che ha detto il preamplificato nella 78. E l'ho messo, però adesso devo buscare l'altro connettore, perché ci avevo un connettore qui a mi sembra a 7P perché scambiava i canali dal microfono. Adesso ne porto un altro per lasciare il suo vecchio originale. Ho preso il connettore del microfono originale per fare il lavoro e dopo adattarglielo ogni presto. No, no, sono contento che se vado bene, lo sai anche perché, ma che funziona bene e anche che mi crea poco spazio sul tavolo, perché prima stavo usando un barrasole nei noiti degli anni 70 che è molto bello, però c'ho 23 canali e mi ha saltato il picco di farlo a 46 perché c'ho la modifica sul quarto, però era un peccato perdeva l'originalità e quindi mi sono messo e sono faccio questo per il 400 e niente, l'ho adattato in mezzo, così c'ho anche più spazio sul tavolo. D'accordo, avanti Giuseppe, è in compagnia mia di Capri 2. Sì, buonasera Mario, grazie per il mic e buonasera all'amico Capri 2. Adesso ti sento bello, forte e chiaro Capri, e complimenti, hai fatto veramente un passo da gigante. Ok Giuseppe, sì, perché ho adattato la 78, il mic da tavolo che avevo in quel famoso apparecchio a 23 canali. E poi però mi sentivo in basso perché c'era da regolare l'apparecchio internamente, la trimmer, e adesso va bene, mi interessa che si senta bene e mi prende anche poco spazio perché ho giocato io e c'è 400 canali questo Giuseppe. Capri 2 è veramente un bel giocattolino, sta arrivando qui che è una meraviglia, devo dire, complimenti davvero, perché poco fa dovevo tirare su parecchio il volume per poterti agganciare, però adesso va benissimo così, la voce è bella squillante, proprio bella, complimenti ancora. Ok, il segnale me lo puoi dare Giuseppe, come si... Ora, il segnale tuo qui è 9 più 20 e radio 5. Ok, cioè da quale zona moduli di Sassari? Io sono, diciamo, dietro via Pascoli. Sai dove è via Pascoli, Capri? Via che lo so, via, lo so perfettamente. Non puoi avermi bene, passati, ho pagato un sacco di soldi che fa anche il cassatetti. Ti riprendi Mario. E cappa, grazie per il complimento, quando si trova ti parlerà bene. Se ci arrivo più forte di Roberto Quadrato mi fa solo piacere. Adesso Roberto mi ritroverà che arrivo troppo potente. Roberto mi piace perché è una cosa, tu te ne spieghi io. Mi diverto un mondo quando c'è Roberto. La sera stavo facendo dei controlli di aria, ce l'ho saputo. Sono entrato 2 minuti e gli ho detto, non è fatto, fate questi controlli quando c'è Roberto, che è andato bene. Io c'ero anche ieri mattina, ho fatto 2 consegne e via, cioè ho fatto 2 volte lo stesso viaggio là, ho fatto un viaggio di cemento e un viaggio di calce e niente, adesso non lo so quando mi tocca, ma penso tranno molto. Confronta e niente, si sta assieme serale, Gianni. Tutto lì. E ripeto, qui sta arrivando forte e chiaro adesso. E salva tutto, mettili un goccio di stagno in tutte le manottole, attacca e tutto quello che vuoi. Lascia tutto così e non dà più retta a nessuno. E così facciamo, Giuseppe. Rimettiamo la ceramacca sigillato proprio, oppure come il piombo del contatto dell'Eine, così sigillo, non ha più il nome più. E cappa, Caprino, va benissimo così. E avanti, Mario. E cappa. Allora, Giuseppe, bulldozer, credo che non possa venire, comunque ha detto che domani ci danno conferma, anche Vela 2, mi ha detto che tu questo sabato ci avevi un appuntamento con lui, con Gianni Doppio Romo e con Coso, con Natalino. E io gli ho detto, vabbè, non mi ha detto niente, stavamo organizzando per questa cena, però tu non mi hai detto niente, che avevi già un appuntamento con Vela 2 e con Natalino. E cappa, Mario, tu me l'hai ricordato adesso, se non me l'avevi ricordato io sinceramente, non per cattiveria, ma proprio mi era scappato di testa, e chiedo scusa a te, chiedo scusa anche a Vela, mannaggia, va bene che io col lavoro che faccio ho sempre mille cose in testa, e ti ripeto, se non me l'avessi ricordato tu adesso, per me, guarda, io sarei stato libero come un uccellino sabato. O venerdì sera o sabato, dai, non è quello il discorso, è che proprio mi è scappato dalla testa, Mario. Va bene, non c'è problema. Già sappiamo muoversi anche con le gambe nostre, non è che per forza debba essere così con voi. Cappa di positivo, Mario, dai, mannaggia. Prego. Avanti, buonasera. Sono rientrato, Mi ha la buona arma di Natalino, mi. Natalino! Ruia. Buonasera, come ti sta arrivando la lavoro 3-1 di Radio di Santiago? Ma è un passaggio, la radio è buona. Capa, guarda, 1-2-3 prova. E 9:15 sta arrivando, va. Cavagava. A casa si è dopo pacco. Via, ti volevo far vedere una cosa, gatta, ma e mi serviva un microfono normale di quelli CTE, mi serviva là in Navarona, perché era chiuso Tonino. Capito. E non l'ho potuto comprare. Io non ne ho, se ho travelato, non ne ho normali, c'ho quelli degli apparecchi che ho, però non sono CTE, sono di quelli Midland, sono degli apparecchi che ho io. Sì, vabbè, già, ma lo comprerò adesso, domani, vado, quando è aperto me lo... perché non ho neanche un microfono normale, devo provare una cosa qua, ma non... vabbè. Senta, la dottoressa Natalina, buonasera a tutti. Ciao, Barragri. Allora, come fa? Sì, qualche volta in bicicletta, qualche volta in pullman, qualche volta in macchina, qualche volta anche a piedi, mi. Che si fa più in macchina che a piedi, dai, ce l'ho capita. E tu dove sei già? Tu fiori. Cavagava. Andare. Un attimino solo, sto parlando di casa. Ok. Mario, è cambiato qualcosa, adesso va meglio l'orario. Eia. Ma sì, ho toccato il trimmer dentro, adesso l'apparecchio c'ha 400 canali, non lo so, curioso, e rimane questo, e mi sono liberato dei 23 canali, finalmente. Anda bene mela. E tutto che mi dà troppo spazio perché mi spavento, capito? E sui canali sopra, e niente, mi dà troppo spazio. Ok, l'ho usato già per valore luce, ma non me ne frega. ragazzo, no, io sono più piccolo e niente, però mi difendo bene. Anch'io devo sempre va a pattugliere di smettere. Ok, non lo metto in doppio, ma comunque non sono stato mai geloso di nessun altro. Io dico sempre, chi più ne ha più ne metta, hai capito, non sono stato. Invece all'epoca c'erano gelosi qui, la mamma... No, che devo trovarsi di... Con quello che c'ha, riprendi Giuseppe. Domani me ne vai a sette di ieri. Vai, vai, poi lo capabruscio. Quanti vela? Dove ti metto la portante? E fa così, mettimi la portante. E faccio fare il righi. Guarda che non c'è il fisico. Ecco. Quanti il brecco? Scappa, scusate un attimo, che voglio dire una cosa a vela. Vela? Gigi Vulcano, se ne potete fare una telefonata che ti vorrà dire cosa? Di cavolo, avevo già fatto 7-8 di telefonata, Gigi. Caparò, ce l'ho giusto per saperlo. Ti ha fatto tutto, grazie, grazie. Marchetto, grazie. È positivo, vi prendete e fate girare. Hai capito? Vela 2, poi di un gabbattuccio che pure se mangia grosso, a me non mi va in nulla, te lo posso fare io quattro, anzi, se vai sotto a casa ponimi la portante e se la testa non ti si incendia c'è un guaracchino. Oh Mario, mica se mai lì, mi faccio prestare il segreto da Giuseppe e ti taglio anche la antenna. D'accordo, dammi, magari se voi ci mettete l'impegno in tutte e due, è presto che ce la facciate. Allora, Giuseppe, ma mangiare sta andando, ma non ritorni dopo. E cappa, dai, un'altra, come termino di cenare, un'altra retta nella faccio, certo che rientro. Ehi, cappa, dai, così dopo devo raccontare una cosa. Cappa, speriamo sia positiva. Sì, ti canto la prima troca, lo spaccio la linea andata. Dai, scendo la macchina e ci sentiamo lassù, dai. Cappa, dai, va benissimo. Io faccio un pochino di bianco, dai, giusto il tempo di mangiare una cosetta. Ci si risente dopo, dai. Un saluto circolare a tutti voi da parte di Giuseppe. Papa Giuseppe, mo carica con tutto. Giuseppe, mi raccomando, mettiti in forza a me, perché se devi venire con me a tagliarmi l'antenna, devi avere un po' di forza. Bubu, anche le immagini, capi due, tutti quanti me ne vogliono tagliare l'antenna. E tu mettili fuori, mettili fuori, così. E sei tranquillo che ci metti poco pure a costruirti un altro. Io c'ho un sacco di progetti comunque per di fuori, ma se te li vuoi fare. Guarda, capi tu, intanto loro non ce la fanno a salire perché gli metto quella colla che mettono per i tubi. Sì, non parlarmene di quella roba che mi è capitata a me una volta, da mamma, che poi nella casa nuova il babbo ha detto che c'erano tuffi nella sua nuova, 3 mesi ci abitavamo, e gli ha messo questa colla, salvo a cercare roba, non l'ho vista, ci ho messo il piede sopra, guarda, con le scarpe nuove, e ti dico che ci ho dovuto lasciare la scarpa sopra, e non me li ho più messo perché era poi sempre a piscicosa. Gappa gappa, e così faccio loro. Li metto la colla per i tubi, così si trovano incollati vicino all'antenna. Sì, Aspetta, sto mettendo una fine, sto chiudendo questo pannello. Fai girare. E io ci faccio girare, non c'è più nessuno. Mario. Oh, mia. Quando lui sempre appannagliato sopravvivo, e avanti, perché? Dove mi sono appisolato un po', dai, ok, sono ripreso. E beh, caricato abbiamo Mario. No, ancora è presto. Kappa. Tra un po' anche io mangio qualcosa e poi a Dudu. Se si sono sicuro non lo posso mezzanotte, eh. Ah, bebè. Kappa. Ma che se non abbiamo mangiato, che andiamo in mezzo ai 4 mesi, sono come ricoglionito e non attacco più un cavolo dell'antenna. Per carità, cazzo, ma ti va fuggito, non lo posso variare. Succede, guarda, succede. c'è Gianni Dottorone in un altro canile che sta facendo le prove, massima, minima, E io purtroppo qui sono, diciamo, in una posizione molto aperta e sento un po' tutti. Pagata Mario, lo so. E così sono io, più o meno. Campo di positivo. E vabbè, va. Nella vita, diceva qualcuno, bisogna sapersi accontentare. Perché chi si accontenta gode. È vero, Pagata, vabbè. Riprenditela, vela. Ah, vela, capi due. Sì, ma ciao Antonio Fantito, buonasera, la capi due da questa parte. E il super saluta in compagnia con il tipo di Mario Marce. Ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, adesso stiamo aspettando a rientrare gli altri che stanno sgranocchiando qualcosa. E io mi sto facendo posto sul tavolo per piazzare l'apparecchio definitivamente, in quanto Giuseppe mi ha detto piomba, non lo farò più che arriva alla grande. E così sono contento e sto finendo di ultimare, diciamo, i lavori. Ripeti, Falchieri, se mi ascolti bene anche tu. Positivo, salutone al 100 a te, QRA familiare. Qua stai uscendo tutto la bomboletta, dai. Pianta tutto, metti un chiodo, lascia tutto così, va benissimo. Riprendi, capirò. Che altro, che anche tu. Adesso mi arrivi bene. Quando scalda la fai su tu, è alla grande, vale, alla grande, adesso arrivi, ti scopri, quindi invece molte volte non ti copiamo. E tu che arriva potente e Mario, lo riparo anch'io, lo cambierò anche per quello, perché questo non c'ha Twitter alla gente, perché nell'altro non stava fracassando lo Twitter, quindi oggi mettiamo questo e così mi risparmio di cambiare lo Twitter, riprendi Mario. E Kappa, anda bene, sono contento, almeno adesso arrivi forte, chiaro, e ti sentono anche la ottava, perché ho visto che Vulcano ci sentiva, e niente, così con questa radio di ora che sei un po' più forte, e arrivi ancora meglio, Kappa di positivo, vai perché. Eia, in effetti confermo quello che dice Mario, sta uscendo la bomboletta, pianta tutto, cena tutto e lascia tutto come, che va più che bene Capridù, ok, riprendi Capridù. Ok, un attimino che sto abitando la staffa qui, riprendi ma un attimo. Gappa. E allora, perché ti hai fatto un pisolino? Ah, veramente sono abbastanza deserrante, ma... siccome ho lasciato la parata accesa, poi mi sono risvegliato, ma niente, giusto per riposare, non proprio pisilino, no. Ah, sono profondo, e così leggero, e niente, adesso già mi sono un po' riposato e già va meglio, dai. Kappa di positivo, quella è la stanchezza, amiche, come ti siedi, ti rilassi, però se ti rilassi troppo ti dormi. infatti, infatti, è vero, è vero, è vero. E va bene, è così, e a che ora mangi, Mario? Cosa? A che ora mangi? Tra un po', là, verso le 10 io mangio, poi so un poco e che finisce il film e me ne vado a nanna. È il capo del positivo, Gianna, lei così. Già va bene. Così. Mi promette se fanno Mario, ma secondo me se ve la c'è di un mondo com'è. Beh, il capo del positivo, mica lo posso cambiare io il mondo. No, per gli apparati, mi sto riferendo agli apparati. Il capo è sempre la stessa cosa. Io mica ci posso fare niente, davvero. A me mi piace sempre che funzionino tutti, e quando non funzionano non mi dispiace, però poi li porto dal dottore e li faccio mettere a posto. Capo di roccio, si conferma. Appagata, io non faccio il chimico, quindi io posso salvarmi qualche PL, qualche piccola fessidia, ma no, non è lavoro mio, e pertanto a ognuno il suo mestiere, è inutile che io ci voglia mettere le mani e poi magari faccio più danno di quello che c'è. È così, è vero, è vero, è vero. Troppo, ognuno sa che su, è vero. Così funziona. Capo di positivo. Ma io già, grazie a Dio, questi apparati non mi hanno dato mai problemi. È vero, non mi hanno dato mai problemi. Giustamente, siccome c'è stato quel periodo nero, ce n'erano un poco che erano spenti, però adesso li sto sempre accendendo tutti, e così che adesso poco a poco col pugno, con la criellina, mi pulisce un po' il sistema degli apparati uno a uno, e così sembrano nuovamente nuovi. Tappa di rocio, va bene. Ecco. Avanti, Vela. Vorrei un primo di tutto un forchetto, un controllo lì. Questo è il nuovo arrivato lì, perché come sto uscendo, come Cappa di Rogio, bene, forte e chiaro. E il segnale com'è? Aspetta, mi giro, fai un passaggio. Ulle. 8, 8, 9. Mario, com'è questo? Meglio o peggio dell'altro? Questo qui segnale 3 tacchi più forte. La radio è sempre la stessa. La radio è sempre uguale? Cappa, bella, squillante, con un pochettino di eco, però il segnale, sì, è 9,23 esattamente. Cappa. Allora già va bene anche questo, dai. Cappa di positivo, si conferma. È una bomboletta anche quello. Cappa, anche questo. Questo è bene con pochi watt, 2 watt e mezzo in antenna e va benissimo, ci va bene. Sono contento per te. Cappa, chi c'è? Forchetto e 2 basta. Ne capi 2, adesso c'è una radio con una bomboletta. Avanti capi 2, voglio sentirti con questo uomo, vai. Ok, Pierpaolo, ho cambiato il microfono solo, l'ho messo nell'ala 78, l'ho messo, e niente di più, e dice che adesso gli arriva bene quel famoso microfono. capito? E a me mi piace la roba piccola, piccola, e quindi sì, sono andato bene, diciamo. Facciamo girare a Falchetto, ripeti Falchetto al volo, te lo lascio in macchina, acchiappalo. Eccolo qua, preso al volo, preso al volo. Hai visto, hai... adesso sta uscendo una popoletta, Qua, non fa una cosa, dico, capire. Adesso sì, mi sei rotto qua vicino a me. Non farti che tu solo ti dica abbassa qui, abbassami. Non farti toccare più niente. Va tutto bene così. Perché te lo sto dicendo, adesso sì, mi sei rotto qua. Non toccare più niente, non farti toccare niente a nessuno. Va bene così. Speriamo che vada a vederci a Roberto. Non ce ne frega un cazzo, mi stai facendo parlare male adesso. Non ce ne frega niente. Ok, se non tocco nulla, che c'ho gli strumenti, ho visto, no. Però nel 300 c'è qualcosa sul filo, però l'ho lasciato da parte. Quando io voglio a quello, l'Intex 340, le diamo una guardata. Non ne ho problemi, che ancora c'è, sto male. Capito, dicevo, una mezza influenza addosso, riprendi Mario. Gappa, gappa, hai visto? Cosa ti ho detto che sta dicendo forte, tu non mi volevi credere. Adesso sei forte come l'accetto. Andrà bene, andrà bene lì da Natalino. Ma Natalino ancora c'è, o quello lì sta facendo? Lo so, guarda, ma lo so perché poco fa ero in macchina e adesso non so se è arrivato a casa, se si è coricato, se è riuscito ed è andato da qualche parte, non lo so, non so cosa dirti, perché Natalino è stato un po' misterioso, non te ne dice mai di niente. Ok, magari entrerà dal copiaca fisso perché già è presto ancora, adesso... L'unica cosa che prima che l'orologio, dicevano l'orologio, mentre il canale, ma già, poi ne mettiamo un altro. E ok, già il doppio luce ha penso che riprenda lo stesso dal copia capisco, di Giuseppe. È andato a mettere qualcosa sotto i denti, poi riprenderà anche lui. A parte ancora Radio Guida, capi due ti metti il cambio, vai. Papà. Allora tu mi chiami Radio Guida. Invece Mario sempre vera due, non finisci mai vera due sempre, ma dove ti piace Mario? Ma io avevo sentito sempre vera due, lui non lo so, lui cosa mi ha chiamato? Vera uno, allora vera uno, riprenditela. Diciamo però stessi, intanto che si capisce che a me, di vera due non ce n'è, di vera uno ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Che regata. Allora, Natali, buonasera. Buonasera. Tutto a posto, no? Tutto a posto, da mettere a posto, cara. Capra gli cambia pure. Natali, lo chiedo anche a te, come va questo? Come? Questo è meglio dell'altro. Meglio è. Ma così comprendi cosa di? Chi l'altro si comprende? Ah, più basso quindi è, ma che c'è? Questo è... non c'è confronto. Ma vabbè, perché ho levato così, ha abbassato per le cose di orecchie, Ma i due è troppo voci, no? Non si capisce quello che dici, è una radio rauca, brutta, non è come questo. Almeno questo già sappiamo che c'è la voce grossa, ma questo qui almeno si capisce quello che stai dicendo. Capo, questo va bene, quindi, non è come l'altro, no? Sono troppo schifo, Questo è di lusso. Ah, vabbè, meglio così, dai, va benissimo, rubito, vabbè. Avanti, Falchetto. Positivo, confermo, questo è meglio comunque, è più comprensiva la voce vera. Perché è più bassa, è una volta più bassa, dai. Però la regolazione è così. dottore a Sassari. E io volevo richiamare altrove, a casa io sono. Ciao, ti ho salvato già poco fa. Ah, adesso sono più tranquillo, vi ho seminato. Siamo contenti per te, Barra Agricola, che tu hai terminato. Ehi, domani devo dare altre due passate. I frangisolle, per uscire meglio, almeno se... senza salire qua e almeno un mese. Ragazza, ah, va bene, ma anche col buio, Ari. Hola. Sto seminando col buio, però c'ho 18 fari. 18 fari nel trattore, davanti e dietro. Già si vede di notte già. Per il positivo. Andà bene. Ieri sei vendere una pura di notte travagli. Tutti si fanno altre cose, in campagna non ci sta piacendo niente. Non vogliono pagare il latte, non vogliono pagare il formaggio, non vogliono pagare la ricotta. Non viene cambiare mestiere adesso. Ah, perché dite le bugie? Noi quando andiamo in negozio che compriamo il formaggio e la ricotta ci spennano vivi, se la base ne paga a cara che sangue. Il negoziante che aumenta il prezzo, non è l'ordine del pastore, no? Io. Avanti. Sono Antonio. Vorrei fare un passaggio con questo apparecchio. Se... attenzione, canale 21, K. Esci bene, perlomeno io ti ascolto bene, c'hai una puntina d'ecco e va benissimo. La farruccia, infatti lo volevo provare adesso esco bene. Ok, dai, riprendete i gaba, adesso ti gira bene. D'accordo, vai falsetto. D'accordo, si conferma, stai uscendo alla grande Antonio, lascia tutto com'è che va bene. Brecco. Distratto il brecco, avanti. Buonasera Falchetto e buonasera a tutta la ruota circolare, cambio. Cappa dell'Orgero. Buonasera anche a te, ben entrato di nuovo. Riprendi Mario. Ciao, Giuseppe. Comunque mi hai demoralizzato perché quando la ciappa Giuseppe di Tronco tutti russi, cazzo ne ha di donne che si ha fatto, andiamo qui, andiamo là, e la prima via l'appuntamento con Natalino, con doppio rumo e con Vela 1. Ah, castagna di doni. Vabbè, ma lui la faccia detti, andiamo a mangiare uno a te se mi fa il che. Alto, intervengo io un attimino. Problema, non è detto, non c'è niente di confermato ancora per quella cosa. Quindi non c'è niente di confermato ancora. Aperta, non è un problema per quello, anche perché sinceramente mi era proprio nelle prese dal discorso con Mario, mi era proprio scappata di testa quella cosa lì, e proprio guarda, se mi aprivi la testa va bene così, poi nel caso strada facendo se si fa qualcosa ci organizziamo in una maniera o nell'altra, Aperta, non è quello il problema. Prendo e riprendo come mi viene, non lo so, organizzare, per me non c'è nessun problema. Avanti, De Paolo. Venga, capo, comunque, beh, oggi è appena martedì, quindi già a partire da oggi, no, si potrebbe fare una cosa verso così, verso giovedì, si può sapere qualche cosa, perché io forse non potrò fare né una cosa né l'altra, e quindi, perché l'abbiamo detta, ma bisognava ancora aspettare per metterci d'accordo, quindi non vorrei occupare, impegnare gli altri per niente, perché poi sì che io sabato probabilmente devo fare un'altra cosa, ma non è ancora detto, che devo dare conferma anche per quelle, quindi non c'era una conferma esatta, capito? Questo voglio dire. E K per A, non c'è assolutamente problema, come hai detto giustamente tu, due secondi fa, siamo appena martedì, quindi hai voglia, ci abbiamo tutta la settimana piena davanti. Infatti, per questo ci si può ancora, c'è domani che è mercoledì e giovedì, e poi venerdì, c'è tutto quattro giorni, cioè, basta pensarci fino a giovedì, poi la conferma io la avrò come mio giovedì. Vabbè, niente, riprendete a fare girare tu, dai. Cappa, dai, riprendi, mi pare che di aver sentito anche l'amico Capri 2 che sta arrivando qui alla grande. Vai Gianni Capri 2. Ok, riprendo io l'ascolto, mi sto lasciando chiacchierare, anche a me piace molto ascoltare, però non so di cosa sto parlando, e niente, comunque, se ci sono altre, diciamo, comunicazioni da farvi, io sempre rispetto e ascolto. Riprendi Mario. Ragazza, no, era una cosa così, e niente, solo che adesso Giuseppe, vabbè, è l'ultima ruota del carro, però con un cammucchio di fumo ancora, pizzillo, e ogni tanto si dimentica le cose. KK, noi la mia accusata in banca, ma niente, è Renzi, pare che non se ne fosse nulla. Capita a tutti qualche volta ascoltarsi di qualche cosa, ma si può sempre rimediare, vero Giuseppe? Caspita, se si può rimediare, figurati che siamo appena a martedì ed erano già accusati, figurati sabato se andavo veramente, cada allora sì che si fa una strage mangiando. Sappiamo che purtroppo è così, dai, ma sicuramente tu hai esagerato perché ti piacerà il gusto e niente, come tutte le cose, no? Dice, vai a mangiare sano, però se si esagera tutto fa male a questo mondo, così che bisogna essere un pochettino limitati. Io, guarda, sono di buona forchetta, Mario, sono di buona forchetta, mi piacciono i salumi, queste cose, mi ho comprato anche la fetta fisica, mi ho comprato ogni tanto, siccome c'ho la partita IVA, quando andavo all'ingrosso, mi compravo di quali salami, prosciutti, e così qualche volta, diciamo, la roba che contiene il sale, si fa così. Oppure le olive, madonna, quelle l'altra volta la stessa cosa, adesso sto imparando la lezione, perché altrimenti non sarei capabile, adesso a stabilizzarsi, domani si metterà di nuovo, più 4 giorni piena, e più c'avevo questo accidente di febbre, ci avevo. Riprendi il pacchetto. Positivo, piano piano si mettono a posto anche le cose, piano piano, purtroppo quando fa male una cosa non bisogna mangiare, tutto qua. Riprendi Mario. Ehi, ok, allora ti immaginai, Giuseppe la media posata sta fuggito, ma cosa facciamo lui, alla faccia di loro, a Sagremo e ce ne andiamo nervoso, dall'assassina maniaca Belagnoni, cordura e roba varia. Non c'è problema, Mario. Bebù, catta Nariloni, lui che si è abbinato lì, Giuseppe, che hai fatto male la rimane a mandarla a comprare lo spray per i stazionari. Meglio un bidonato che sono Giuseppe e me. Te qua. Cos'è? Non te ne perdono una qua, Figurati, io sto ascoltando. Intanto mi sto mangiando un paio di cose di melanzane alla contadina. Di dose, chiate che non vi viene a dirlo. E continuate pure. Ma è compreso, noi va bene adesso, ma niente, che ci si mangia nei ricucciucci. Sei qua. Sarà banzinario, ma a vedere che già te lo combino io, a te lo scherzo. Vai tranquillo, che prima o poi ti combino lo scherzo, che si sarà dimostrato di miringhi. Tu che andiamo? Vedi come rulla lo stemma in vani, cazzo proprio per subito. Giuseppe, suga? Su che andiamo? Arrivare l'avevo firmato a Giuseppe, perché ne ho avuto la cosa, là, se non faceva brutte figure. Era già convinto di andare a comprarsi il liquido per le stazionarie, per lo spray per le stazionarie. E lo so, ma già andarlo, Sì, già lo so, non ce l'ho più io. Ah, sì, e senti, mi sembra che lo c'è. Ah, c'ero. Ah, alla fine ho avuto il coro, ho detto solo perché un amico là, non lo facciamo andare, l'abbiamo voluto venire a me, di darmi una boccetta di spray per le stazionarie. Caso mio, se era andato da Antonello, se era meglio di spray, ce ne andava a vedere un po' da lì. Oh, per fatto, da più me ne ero ritornato a mani vuote, che si vuol fare, pazienza. Magari ti ha mandato in oggi. Ecco questo, ha detto Pierpaolo, credo mi conosci. Che fa? Ma se la carmato se l'abbiamo andato a vivo, parola. Per come c'è cascato Giuseppe, è un scherzo. Se è stato un altro ce l'avremmo andato, ma lui no, dai. Che fa? Lo so, sabato la prima cosa che faccio. Però c'è da dire una cosa, c'è il gangone, che Giuseppe? Cioè, se hai detto poi è andato a messi da Ruccio. Ma io più infatti stavo facendo un'altra cosa a te. Che cosa? Stavo comprando un paio di bombolette di quelle che c'è l'aria dentro. E le avrei portate a Porto Antonio da quello che mi ha fatto la scuola, non ti ho fatto disegnare anche il padre sopra. E le avrei fatto disegnare un'antenna sopra con scritto Sniper stazionarie. Se non te ne accorgi subito, fumo, se stai modulando. va bene, allora vuol dire che prima di modulare mi affaccio alla finestra, tanto il cavo mi passa proprio qui sotto. Mi accordi, comincia a andare tutto un casino. Tu te ne accorgi anche dallo smitter che diventa strano. Ho capito. E invece quando sei senza antenna che segnale fa? Sono 5 RM. Ah, ho capito. Cacchio fai la mia scelta, a tu. Cazzo, ti dovevo fare la bufonatura. Questo però lui prende informazioni subito, no? Per una cosa o per l'altra. Cosa succede? Fui marito, eh? Perché il sangue lo sai com'è, no? È come il fiammifero, si prega una volta sola. E K di positivo, Natalia, almeno tu sei dalla mia parte. Fa un rumore. Se dopo la portata non ti posso fare da. Dai, la dalla muta, fatti a fare tuyo. Ferratemi sì. Ma se sapete, allora me ne devo mandare un permesso. Se segnala. Torna! Torna la fine a cura, no! Guarda che nemico è sempre in ascolto, Antò, Cuccio. Tornato ci sei, ma è la brava Antonio. Come se se ne arrivi, serpa, e mi come se se ne arrivi. No, la vita, ma Paolo, una cosa passa Giuseppe, ma glielo faccio domani, là. Dimmi pure Pierpa, dimmi tranquillamente, non c'è problema. No, no, a parte che ancora è troppo presto, più tardi magari, là. Vuoi tu Pierpa, non c'è problema. No, no, non si può raccontare, dai, qua ancora non si può raccontare, più tardi sì. Ma Gianni, che fine ha fatto Pierpa? Guarda, io ho lasciato le dono salire a casa, non lo so, magari sta ancora ascoltando, boh. Gianni, la più roba ci sì. Ah no, dovevo mangiare ancora, scusa. Può sistemarsi quella roba là, bene, bene. Dovevo anche mangiare. Io ma poi che te l'ho telefonato 2 volte e non rispondi mai su un telefono, ma che di miglio di curatela? Quello lo sai che te lo fuori a lui, fai prima scrivere una lettera al papà che a lui. Salino, ti volevo chiedere una cosa dall'altra volta. Prego, si accomodi. Il tuo apparecchio, se rimane senza antenna, il tuo intec che c'hai in macchina, dai. Manda un coso sonoro, manda. Non l'hai mai notato. No, non ci ho fatto mai caso. A questo qua fa così, se sei senza antenna ti avvisa, non sto scherzando, come te dici, non la devi attaccare, allora c'è il problema. Non ci ho fatto mai caso, la verità, perché non mi è mai successo di andare senza antenna con quello lì. Provaci, provaci, col piede attaccato, vedi se ti manda un coso sonoro. Può darsi che lo faccia, tanto sono uguali, dicono. Più o meno sì. Meglio è. Ma oggi dove sei stato, fuori? No, ero qui in zona, Pierpa, in zona di Sassari. Ti ho sentito solo stasera appena, Sì, ho fatto un passaggio, ci siamo sentiti subito prima di pranzo e poi ho cercato di entrare prima delle 3, e però c'era un po' di movimento, non lasciavano manco un secondo di bianco e non ce l'ho fatta. Da qui allo stabilimento ci ho provato un 3-4 volte ma non sono riuscito a entrare. Porca, poi ti ho sentito appena, poi non ti ho sentito più. Infatti, perché poi sono arrivato giù in stabilimento e ho dovuto chiudere, Pierpa, perché cioè era una spostare di magari a sovramodulare qualcuno, giusto per dirgli che stavo chiudendo, mi hai capito? Perché una volta che arrivo lì poi tra passare la tessera e cambiarmi, e sempre quei pochi minuti mi ci vogliono, quindi ho preferito chiudere direttamente. Allora, l'altro alla radio. radio meno chiara. Questo qui è più chiaro del radio. L'altro la radio ce l'ha più compressa, forse anche tu come lo regoli, ce l'ha più compressa come radio. Ma sono belli tutti e due, però questa è più chiara come radio, hai ragione. Vabbè, questa a me smontra il comune anche di messo all'altro, però quello fa la scelta più prepotente. Sì, effettivamente è così. Mi cominciamo da cacca, per l'amor di Dio, se no crolliamo tutti, Ma da cacchiedi. Quattro mesi è chiaro. È stata una giornata, c'è un po' giù per carità, tra mattina e sera vanno gribbati. Ci posso credere, anche perché casa è come è sbadigliato, gatto, mi sarà che rendendo varacchino, no? No, non era l'intrusivo, A me mi ha fatto vivere la mattina alla gruberisa, ma le ha parlato, mi ha tattalino. Quel telefono, come ti trovo il vostro, te lo tiro a terra. Il telefono non ce l'ho in casa, Rattarino. Purtroppo me lo sono dimenticato. Ah, oggi sei lui dimenticato. Gaba, in macchina me lo dimenticato. Ma io anche il telefono, se io metto la telefonica. E allora già era fatto secco che ero sceso a prenderlo col telefono dalla macchina. E vabbè, tanto era un posto dove non si vede. Perché mi ha telefonato Pierpaolo e poi l'ha appoggiato e mi sono dimenticato di prenderlo. Oh Gianni. Marami. Una nostra cliente di Siniscola ha messo il coso nel telefono, no? La voce, sai, quando loro sono fuori per lavoro, no? E ha fatto una di quelle, di quegli strafalcioni, guarda che ogni volta che faccio il numero me ne piscio. E cosa dice? A costo di registrare, no? Tu senti la voce sua, della moglie di questo nostro cliente. Al posto di registrare, qui risponde la segreteria telefonica di Tizio, siamo momentaneamente fuori per lavoro, lasciate il messaggio dopo il bip. Lei ha detto, risponde la segretaria telefonica. Tanto ogni volta che lo facciamo, guarda, state, ce ne pisciamo dalle risate, cazzo, perché è una scena quella. Segretaria telefonica, per carità. A lei si ritiene la segretaria telefonica. Sì, avanti, Vela, dai, riprenditela tutta questa benedetta onda di questo magico canale, su che andiamo. Luga, ma Vela 1 sicuramente sta preparando il tiramisù di nuovo, né? No, niente, sono giugno di fretta, Se però ieri, Gianni, vedevi quel cucchiaio che sta andando e correndo, ogni tanto siete in via. Senti come rulla? Ogni giusta che l'ha data. E su di due su due parole. Ma non lo so, l'ho cercato troppo un letto, anche la pure prima era tiramisù, dopo mi ha tirato giù. Che tra... E perché? Cosa ti ha fatto andare? Scorrerci addosso? Come l'hanno messo in sacco, mica Giuseppe che mi ha bestemmiato per lo sbraino. Così tu che me l'hai tirata, invece adesso ci ho pensato, non ci ho pensato adesso, ci ho pensato, me l'hai tirata a due. Gira gira, cazzo, cade mai, o in una maniera o nell'altra non ci cadevo, non ci dovevo cadere io in mezzo, Giuseppe, chissà, mi dando da giudizio che rimane impassibile. No, me l'ha capitata una oggi, Natalia, oi, non si può raccontare. Poi vuole una sola. 10:30. Hanno che nessuno racconta. No, è troppo presto ancora. Invece a me venne capitata una ieri sera quando mi sono allontanato da qui. chiamato il citofono, cazzo, ma una cosa, guarda, che solo a pensarci adesso, guarda, beh, mi viene la pelle d'occa, cazzo, è proprio la gente. Cosa ti è successo? E ieri sera ha suonato il coso, no? Hanno suonato da giù il citofono e ho risposto, questo ha fatto, siete gentilezza, poteva aprire il portone. L'ho aperto, ho detto magari mi stanno cercando quelli che abitano sotto di me, no, però no, te capita perché la tipa ha lo stesso cognome che a mia moglie, mi hai capito? Cavolo. E niente, e dopo un po' ho sentito dei colpi qui nella porta, apro la porta a casa e c'era questo qua, poveraccio, senza le braccia, e con un cartello appeso, no, al collo, e dice non voglio, c'era scritto poverino, e non voglio né da mangiare, non voglio manco elemosina. No, un attimo, aspetta Giuseppe. Cosa vuoi dirlo? Giuseppe. Dimmi Pierpa. Aspetta, io prima voglio una spiegazione prima che prosegui. Allora, suonato il citofono, poi è salito, ha sentito bussare la porta e ha col coso, ecco perché ha preso dei campanelli, ha suonato con la testa. La porta come l'ha bussata? Bussata con i piedi perché si è spenta la luce, poveraccio, delle scale. Ah, con i piedi? Ah, vabbè, adesso ci siamo arrivati alla spiegazione, continua. Ho guardato dallo spioncino, e ho visto che era buio lì. Ho acceso la luce e ho visto, ha aperto la porta, poveraccio, e c'aveva un coso con un pezzo di spago e questo cartellino bianco, no? E dice, non voglio aspetta qua, non voglio né roba da mangiare, non voglio manco le limosine, cioè c'era scritto una cosa del genere. Sì, ma dico, cosa stava cercando? No. Qualcuno che gli desse una grattatina alle palle, già. Tu l'hai accontentato? No, no, mandato dalla tipa che c'è qui, nello stesso pianerotto. Che bastardo che sei. No, non è cattivo Giuseppe, è solo un piccolo bastardo. Però ti voglio bene lo stesso, Natali. Qualche luna di poco buono per il tuo falano. No, diciamo che in caso di necessità, insomma, qualcosa devi fare. Io ad esempio la manina che uso per grattarmi la schiena, no, quella che fa anche da calza scarpe, ho provato a chiedergli, però dice quella non gli andava bene. Chi è che si è soprammodulato? Io ho detto, mia Idu, allora mai fa arrivi a giudizio. Cappa, ma ditemi una cosa, ma Capri 2 è ancora qui in modulazione? Capri, ci sei? Ti sto ascoltando, Giuseppe, però non ho capito bene, c'è un po' di problemi. L'ultima battuta che hai fatto. Quale? Dimmi dove ti ho lasciato. Ti ha detto che non voleva l'elemosina, cosa voleva in poche parole? Volevo la grattatina alle palle, Capri. Questa me la sai, me la sai, come ripeti già di non più lui. E Giuseppe che la voleva scherzare stasera. Sei più caldo già, potrei drammatizzare un pochino, dai, tanto la nostra è solo una vita di sacrifici e ci si accontenta di poco, dai. Cavagava. Babu. Babu. Ma Giuseppe, sabato qui al limite ci sentiamo per telefono, là. Non c'è problema. E vediamo un po' cosa facciamo. Cappa già, non c'è problema, dai. Non siamo qua. Io sarei voluto andare nella pizzeria del fratello di Cosi San Vito, a Florina, che dice che c'è musica, karaoke, si sta bene. Florinas, Florina. passi. Passi. Prende il bivio. Bivio. Per Mulos. E K, lì l'unica cosa da fare però è dobbiamo andare ad acqua, perché non si può manco permettere una mezza birretta come abbiamo fatto l'altra volta, perché se ci beccano sono casini. Sa che quello che guida non beve. E K, allora facciamo guidare a Pierpaolo. Tutta la frequenza si è molto lenta. Ma la schiaccio la casa, tutti quanti tenendo da vicini, come hanno sentito acqua, a me la tali. E qua, invece vuole una questa, tu. Buone a gamma la donna giusta. Bene, già, sagato un cattivo, allora che non le rompete, no. Giuseppe, mi hai grata a te, sì. E come Mario, non ti ho sentito. Ma quello che stavi raccontando, gli hai grata a te bene. Oh, scusate, io mi sono fermato per mangiare, ma già mi stavo ascoltando, dai. E mi stavi tappando e ascoltando, dai. Ecco, invece tu stavi pappando e poi sei andato a grattare le palle a quello che ti ha bussato la porta. Negativo, questo è successo ieri sera, Mario. Già l'ho capito io che è successo ieri sera, anche perché mi hai detto un attimo che hanno suonato la porta e la guida del paese ha detto, ma che sai che siano i carabinieri? Adesso capisco perché hai preso molto tempo ieri per mangiare. Un quarto d'ora. Davantieri che sono rimasto fuori un'ora a Pierpa. Ieri ci ho messo un quarto d'ora per mangiare e mezz'ora per grattare la palla a quello che gli ha bussato la porta. E poveraccio cazzo, anche lui aveva le sue necessità e se gli mancavano tutte e due le braccia, Mario, che cosa devi fare? Come grattati con la grattugia? Con la manina in plastica che ho qui in appesa. E te ne mangerai se mi hai fatto, vedi i capi. Attari. Attari. Poi la banca dimmi. A Sibici Antonio. Hai mai fatto, ridimmi. Vedete, fate girare. Gaba gaba. Ma io per qua facci sognare con questo apparato nuovo. Ma perché questo qual è quell'apparato famoso che tu doveva portare Gigi? Papa, non senti, com'è? Più tranquillo è l'altro. Diciamo che rulla bene. Rulla bene? Però è per l'altro più scandaloso. Addirittura, però non si parla con la bocca piena per Paolo. Rullo, rullo, sono cannone, così ce lo fumemmo. Ah, io ci sto. No, non lo so. Non stavo parlando con la bocca piena, stavo sfruttando i piedi. E la vai a mantera? No, che me ne sono mangiato, me ne sono mangiato di cogliere la mosca. Come mai, Pierpa, cosa ti è successo? Oh, yeah. E beh, Capri, come va laggiù? Già va bene, già che fa, adesso un altro po' di passaggi e poi me ne vado in 144, speriamo che la notte riesca a passare una notte buona. Volevo poi parlare con Gianni Doppio Ronco, mi ascolti lì, Gianletto. Benissimo, di radio bene, prova a sentire. Sì, 1, 2, 3, prova. È aumentato di nuovo, si è quasi 7 adesso. E adesso magari ha scaldato. E io come sta arrivando, sempre bene. Lo stesso già, lui ho soldato la 78, ci ho trasferito stasera, ho fatto le connessioni, ci ho messo una macchina a cavo, se no non ce l'ha preso di uscire, non si batteva un chiodo, poi l'altro me lo controllo più con calma, perché sono già creduti che lo sto bene, sai. Stasera mi sono proprio dedicato a fare quello per fare qualche chiacchierata da con voi, ma sembra che vada bene. Rilascio il tutto a, a Giuseppe, dai Giuseppe, raccontacene qualche altra. Che cappa, capri due, dai. E niente, se poi, guarda, vuoi passare una notte, diciamo, discreta, non metterti problemi, veniamo e ti cantiamo la serenata sotto la finestra. Sì, ma guarda, ora non so scherzare, Giuseppe. Non vedo già se questa camera è un ghiaccio, d'estate in un forno, e bisogna... Quando adesso faccio il tetto a nuovo me lo faccio fare come si deve. E tu devo passare per dirvela con la coperta attaccata, con la coperta elettrica attaccata, io ti ho lasciato anche quella stufa al neo proprio perché è lì che mi ha fregato, perché c'è freddo, dove c'è la stazione, capito? Molte volte non c'ho, non la sago, la stufa, e quindi parlando forse ho pigliato qualche colpo d'aria, ma speriamo che domani sia meglio, perché sono ancora domani, posso così, non sono dell'umore anche che devo essere, di solito sto sempre scherzando, quello lì è il mio umore. Natalì, va avanti! Sì, ya. Sto dicendo che stasera lo stesso c'erano i fili congelati, neanche quello scaldino che c'ho io stava scaldando. Dimmi tu, roba di freddo ce l'ha qua. L'ho tenuta io passando, mi sono alzato e ho acceso la stufa a due elementi di quelle al neo, perché non si poteva fare, proprio durante la notte qui un ghiaccio, adesso come hai detto tu, che non se l'hai messo il termometro del coso, io mi stavo ascoltando, dell'acquario, ce l'ho anche io quel termometro, lo voglio mettere qui e fare un corno a vedere a che temperatura siamo, perché era un ghiaccio di notte qui. Sono grosso modo lì a Muros, Gianni. Che non ti ho capito, Giuseppe. Ti ho chiesto poco fa, grosso modo, come siete a temperatura lì a Muros? Quanti gradi ci saranno adesso? Non lo so, io penso fuori una decina di gradi, stasera io quando sono rincasato c'avevo freddo e stasera ho finito prima, erano le 4 e qualcosa, però c'avevo freddo, fuori c'era freddo, la temperatura si è abbassata e così sono Natalino stasera che non so a quanti gradi era fuori Natalino. A 6 gradi, ce l'ho io poco fa in giro, a 6 gradi. Allora, io ho controllato appena adesso il termometro che c'è fuori dalla finestra e sta segnando 8 gradi. Qualche spostata l'ha fatta e qui c'ho freddo, c'è freddo, noi dobbiamo fare la stoffa accesa. Giù c'ho il caminetto, in cucina, però non è che scalda più di tanto perché poi c'è la raffa delle scale che si porta via e stavo sempre buttando legna, hai capito? Questo salito qui un po' la radio che ho dovuto portare la stufa perché un ghiaccio, c'è freddo, l'estate invece è un forno, l'incontrario va bene, c'è gente che sta peggio. Ok, Mario Manser, hai finito di cenare? Mettiti la stufa che lì c'è la fissa, lì se quella cameretta è vuota e sale solo per chiacchierare, mettiti la stufa, se no ti accappare vado di quei pinguini. Io ti consiglio una stufa a pelle, oppure almeno una pompa di calore. Sì, già me l'hai fatta, Dino, mia moglie sta battagliando per la stufa a pelle, devi gira, adesso già no perché ci sono i pagamenti, però ci faccio un pensierino, la pompa di calore no, perché non volevano che c'è una facciata antica con quei lievi, non so se l'hai vista, a metterci nulla, la fanti aveva fatto le altrimenti circa 5 euro al giorno. No. 5 euro al giorno circa. Un sacco di pelle cosa sui 5 euro, 4 euro 90. Devo dire, se ne sono siamo lì qui, tra la legna nel cammino e la stufa elettrica che consuma quando mi si hai capito, quindi il consumo è quello, il consumo è quello. Però ti ho detto che bisogna darci una mossa, adesso va bene. Rappresentante era diminuito il freddo, però ci devo pensare per il prossimo freddo, proprio sarà l'ideale la stufa a pelle che sarà. Poi per quanto riguarda Mario, io non ho molte camere, io modulo, mi ho dovuto piantare questa stazioncina dove dormo, perché la camera è molto grande, capito? E altro posto dove ho già gli amici, c'è una bella sala con sieta, però lì diciamo, vedi una persona non deve vedere queste cose che sono nemico, se si vede una persona di fuori che va da, hai capito, a vedere queste cose, come moduliamo e come, finché siete fuori e siete degli adiamatori, dei cipini, come va a capire, però lì, quando viene gente la dice fuori, non ci deve essere questa roba, e quindi mi sono adattato qui, perché posso, non ero molto, incredibile che fa. Stavo già calando. Ok, riprendo io, dai, salutoni belli a tutti e a tutta la ruota, dai, QRT da parte di Parchetto, chiude le trasmissioni e ce le riascoltiamo tutte le prossime, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao Falchè, buonanotte. Avanti. Ok, ci sentiamo alle prossime, buonanotte, dai, ci risentiamo domattina, ciao ciao. Avanti Mario. Ciao Falchè, buonanotte, buon tutto e a domani. Sperando che non mi succeda come oggi, mi sono dimenticato di attaccare il cavo. Tranquillo Mario, già ti ho avviso io domattina. Lascia assolarmi il campanello, ma presto però me. Cappa, alle 3 va bene Mario, io tanto esco alle 3 e un quarto da qui. Alle 3 e un quarto, e dove devi scendere a Cagliari? Cappa. Tu che farti così presto? Devo scendere giù a San Luri prima. Beh, San Luri ti viene in passaggio. Ma devo scaricare e ricaricare per portare a Macchiarello. Ah, la fai di positivo. Vabbè, partendo alle 5, a San Luri alle 7 e mezzo non ci arrivi. Però se parto alle 4, io alle 6 e mezza sono lì, tra scaricare e ricaricare e si fa già tardi. Allora c'è gente che ci aspetta per caricare. Cappa di positivo Mario, mi scaricano, poi mi ricaricano, devono scendere giù a Macchiareddu, devo riscaricare e poi devo scendere giù prima a Emma e poi devo andare a Sesto. Allora c'hai un bel giretto per domani mattina. Vabbè, comunque quando scendo io verso le 4 già mi dovresti sentire se c'hai una buona ricezione. Ma dimmi una cosa, il piatto di Calafatto per caso Vulcano? No, l'impianto l'abbiamo fatto noi in casa. Ah, cappagato, no, perché a Vulcano sono riuscito a accompagnarlo sino a sotto Marcomer, così che se ti aveva fatto l'impianto lui magari ero sicuro di sentirti, ma se te l'hanno fatto altri non so se sono sicuro di sentirti. Anche perché domani dovrò stare a pacca e spacca col microfono, perché ancora non ho avuto il tempo di avvicinarmi alle poste per pagare questa benedetta tassa, capite, di questi 12 euro per il baracco. Finché a casa mi posso fidare, però domani sarà un continuo attacco e stacca se vedo posti di blocco, perché tanto me la chiedono, perché come vedo l'antenna la prima cosa che ti chiedono è se è la ricevuta del conto corrente per la tassa ministeriale. Si conferma. Sì, non ti chiedono i documenti. mettere nulla, come avere un'antenna ti chiedono la tassa dell'apparato KK di positivo e vabbè. Comunque io di norma 4,5 5 accendo, scusi, ti sente buono, se no ciccia. Se non per far più ci sentiamo quando sto rientrando, io dove vedo campo libero attacco e comincio a sparare. E stasera ad esempio c'erano dei colleghi sul 5, c'era anche Rita e c'era, adesso non mi ricordo, c'era Gigi Vulcano. Però Gigi Vulcano già lo sento bene. Gigi Vulcano lo sento benissimo, guarda, sentivo a lui e lui sentiva a me forte e chiaro sino a sotto ma com'è. Diciamo così dopo il curvone di nuvolo, là. E capo Mario, se con la centrale nucleare che a lui non lo si sente, cavolo, allora la cosa è veramente triste. Ha perso meglio quello che a lui. Andà bene, là. Babù, anche io ne approfitto che adesso c'ho la pancia piena, però me devo pigliare ancora il caffè, poi le pastigliette e poi me ne vado a Dudù. Vabbè signori, buon proseguo, buon tutto e ce la riascoltiamo alle prossime trasfusioni. Ciao ciao a tutti, buonanotte. 144 e niente, dai, ci sentiamo alle prossime, cordialità e buonanotte, avanti Gianni. Va, ciao Mario, buon QRT, ti incontriamo ancora per domani, dai, ci sentiamo. Ciao Mario, buonanotte, ce la riascoltiamo domani, dai, io ti seguo se faccio tutta. Buonanotte Mario, ce la riascoltiamo domani, alle prossime. Ma ci sono, c'è qua. Perché forse c'era il microfono dall'altra parte. C'era il microfono lontano. Brava, brava. Perché ti hanno già fermato, Giuseppe? Come per qua? Ti hanno già fermato e ti hanno chiesto il bollettino pagato. Cappa già un paio di volte, saranno le 4-5 volte che me l'hanno chiesto. Ammazza che fortuna che c'hai, ti fermano in mille occasioni allora. Con la barra pesante, anche se nuova, sei sempre soggetto a essere fermato, perché in genere i soldini li fanno così loro dai camion. E poi il mio baracco, hai visto dove è sistemato, no? Quindi loro come si avvicinano sotto la portiera, il primo impatto è quello, perché poi vedono anche il microfono, o i penzoloni o è appeso via alla staffa, proprio ci vanno a sbattere il muso sopra. Tu vabbè dai, un nome tira l'altro. basso, qua c'è la vita c'era di lungo e gli altri posati in su sono rotondi, tutto lì è il particolare, è tutto vero. Però diciamo che la novità è dentro adesso. La novità è dentro, prima era normale, come quell'altro che ho sentito l'altro giorno, perché anche uguale così circa noi, quella lì circa c'è il superstar, c'è anche il superstar, l'altro era normale. Dimmi una cosa, ma è grande come quello che avevi prestato a me, per... cominciando a farmene un'idea. Se tu vedi quello, quello era 87 e l'anno 87 e questo qua invece il Typhoon 2, capito? Questo è il Typhoon 2, un programma quanto è quello, già quasi c'è la stessa strumentazione della Fayette. È bello, chiaro, è proprio bello, proprio una radio da incorniciare. Fammi un passaggio a proposito, voglio vedere a quanto sta arrivando di segnale. Adesso è su 2,4 metri, guarda un po' vedere il segnale, ulla, mi chiamo quanta sorda per questa cosa. 2,25, piatta, se stai andando con 2,4 metri sta arrivando alla grande qui, eh. Scegliamo da 50 watt, 55-50 litri. Che cosa era 55 watt? Allora si deve già alimentatore, ampere, scusa, 55 ampere, questo malacchino. Oh, c'è un alimentatore 55 ampere, va bene, allora su tecnocomunicazione. Cosa te ne vai? E quando c'hai troppa roba attaccata ti dà lo stesso. Ma io non ho troppa roba attaccata, non la ho attaccata. Io anche se attacco il lineare, ma la fa come ce l'ha fatto io, si è alimentato da solo. Alla gara. Sì, riprendo io per salutarvi, che diamo la diagonale di 044. Saluto a Pierpaolo, Giuseppe, Gianni, Antonio, tutti gli amici che sono in ascolto, volevo salutare Mario, poi gli è dato un vostro pippo e non è stato fatto. Comunque, Capri 2 passa in QRTSK, vi auguro un buon trabacco per domani, anche un buon tutto e ci rivediamo domani sera se Dio vuole. Vi lascio il tutto a Giuseppe. Capito, dai, buon 144, ci risentiamo presto, dai, e buon lavoro anche a te e per domani. Ciao Capito e buonanotte. Avanti Gianni. Ciao Gianni, ci sentiamo, buonanotte, buon lavoro per domani, dai. Allo sbide. Ciao Capito, ciao, buonanotte, buon tutto, buona giornata per domani. Scusa, avevo una colpa, è stata mia. Devo dire la verità, mi ero dimenticato completamente di te, perché stasera sei così, sei un po' giù e quindi non sei il Capri 2 bello pimpante, è la verità, devo dire, e mi sono dimenticato io di te, la verità, va bene, comunque, buon riposo, ce la riascoltiamo domani, là. Ciao Pierpa, ciao, buon tutto, a domani, ciao. Brava, brava, ciao. Ti saluto perché non ti, sicuramente Antonio non ti sente. Ti saluto da parte anche da Antonio, vai. Cava, gala. Avanti, Giuseppe. Eh sì, già, io sono sempre qua. Un'altra motoretta me la tiro, sono già le 11:05 subito. Cavolo, è 4 di stasera. Mamma mia. Mi stavi dicendo Gianni che tutto al più noi ci sentiamo per telefono, ma naturalmente era sottinteso per sabato. Via. io sono un pochettino, io ho se mi dite la crema, vabbè un altro pochettino e poi me la chiudo anch'io. Cioè, sono preoccupato, c'è ammasso lo smitter qua, Non parli? Esatto. No, assorbimento che fa? Ah, mi sta assorbendo come assorbimento, mi segna 3,5, 3,5. Te ha bisogno dello spunto? Lo spunto? Cazzo di lo sto alimentando con 30 watt, con 30 termi. Ma anche io. Ecco, allora alimentavo con 30 ampere pure. Vista la macchina va bene, lì potevi fare qualsiasi regolazione, non andava bene. Cavolo, aspetta, allora, il vatto mi sta dando 2,5. Adesso li calo giù tutti, cioè, vabbè, pure. Va bene anche così. Meno poco più di mezzo vatto, dai. Di quasi 9,3. Come sono andato? Io. Ma va. Quasi 9,30, se 9,28 qua. Allora adesso ricariamo giù del tutto, vediamo un po'. Giuseppe, guarda Adesso vediamo. Vediamo il punto. Vediamo un po' adesso. Non va. 1,3, 1,3. Sì, non c'è stato quasi nessuna modifica. Diciamo che è sempre sul 9,25, 9,3. E confermo anche da parte mia. Da parte. No, io facciamo il cielo. La confermo quello che ha detto Gianni. Anche qui sta arrivando 9,25. Quello di che cosa si tratta questo servimento del calo della giornata? Tu sarà, ma no, io che avrei chiamato la lampadina per spingerlo. E Paolo? Dimmi. Ascolta, ma hai passato qualcosa in questi ultimi passaggi che hai fatto? Ho passato qualcosa? Cappa. Ho passato il vata. Lo sai invece come mi stavi arrivando prima? E come? Però stavi arrivando più di 9,30 qui, Ecco, più di 9,30, cioè, insomma, poco più di mezzo vatto, ma rimettere, ma giusto per una curiosità, ma io non ho visto male poco fa, te lo volevo dire, però poi ho detto, aspetta che abbasso un altro pochino, prova a rimetterlo come era per una curiosità. Così è mezzo vatto. No, adesso sei sceso ai 25, ma poco fa avevi dei picchi in 9,30, 9,35 addirittura, se questa è la scala che sto leggendo bene io. Poi c'è il coso SG. 9,35. Mario Manser, buono. Sì, anche salutato a Mario Manser. perdendo colpi, è che qua c'è un po' di sonno. Sonno, dai, allora ti cantiamo la mia data, non c'è bisogno, ti ho fatto tutto da solo. Vero, basta che parliamo altri due minuti e ci a posto. Cappa. Ma dai, ti abbasso anche la voce, va bene così, guarda, così, ma va bene la voce. Sempre alta. Sempre alta. Sembra il leone della foresta. Con questo lo sai che ci vuole il ruggito. Cosa che mi consola è che non mi sto rincoglionendo da solo allora. È stato ricoglionito. Ebbene, già mi sta perdendo colpi come li sto perdendo io. Abbiamo salutato Mario con tutti i convenevoli possibili e immaginabili. Mannaggia Gianni. E vabbè, anche per Paolo ha avuto un coso, un attimo di perdizione. Capo si è dimenticato che Falchetto se n'era andata. Diciamo che abbiamo avuto un momento di defaillance. Di confusione, finalmente contorto. E come lo stiamo rollando? Stiamo andando in calo. Sto andando in crisi d'astinenza. Oh. Ale. Ehi? Mi hanno fatto parecchie osservazioni oggi, Che cosa? Mi hanno detto che bisogno ce n'è di usare questa radio di notte, che si devono usare le radio tranquille, non si devono usare queste radio, non si sul camion, quelle sono radio da camionista. Me la fai a rompermi la palla, cazzo, tu la radio da camionista, fammi tu col cazzo per fare più piatto a me. E chi era, a chi non gli piace, spenga la radio e se la va a far culo, così gli ho risposto. Chi è questo qua? Più di uno ti ho detto, non faccio il nome, più di uno. Cazzo, non ho parlato proprio male, ti fa andare a tirarmi i santissimi sacramenti. Oh? Cazzo, parlo come il cavolo piace a me, forse ancora qualcuno ha capito. Se non mi vuole ascoltare, prende e spegne, non me ne frega niente. Basta, mi cazzo, fate le prende, la legge in buco, a cuscente, i ghibi, nemmeno qua entro a fare il dado, so che è andato a mettere la radio. Io ci avevo avuto la radio, ma la cuscia sola e dopo non ti piace nemmeno la cosce. Alla mia di me sarei adattata a carta e chimica, a spegni cucci. Altre cicatri. Allora, allora che cuscia è entrata a fare il dado, invece ci avevo i ghibi, a cuscente, e la voi critichete. Ma io, allora ho deciso che tutta la cecenda io mi traverei il culo. Mi prendi la tarina, la te, il microfono, vai. E domani c'è pure io, ecco, così impara. Bravo, Toro e Lucio, così muore. Aiuto tutti con l'eco. Attenzione sul 21. No, ti è arrivato, lo vedi. A Giuseppe bisogna fare comprare DM1000. Attenzione. Tu all'altura già. Tu ce l'hai con me stesso, Natalia. Ehi, ce l'hai uguale già nella parecchia. Ma che volete ascoltare, sì o sì oggi? Devo aspettare, che cosa tu sei? Ho detto, mi volete ascoltare stasera, sì o sì? Figa, dimmi. Ero lì lì per dirmi, poi già non mi ho anticipato, ma se io dovessi andare da Grazi, un microfono con lei, così lo trovo. No. Ma proprio brutale questo no, potevi dire, forse Giuseppe, magari poi andavo lì, non acciappavo e non succedeva niente. Tecnocomunicazione. Parola, ancora lì. Lasciamo te lo ordino io, poi arrivo a casa e entro lì. Magari già, perché io qua internet non l'ho rinnovato, cioè mi sono imbarcato in tante cose, però devo rinunciare a qualcosa per forza, perché qui sono da una che apparecchio lo vuoi? Per il 48, quello che sto usando qui a casa, che poi sono uguali lì, sia il 48 Excel e il Multi, il Pulse. Con l'Excel io posso cambiare il microfono da uno all'altro. Quindi, anche perché con un filino d'eco sarebbe l'ideale. Dico bene, Mastro Vela? Esatto, guarda quello che stanno operando sul Maximo. Esatto, anche uno così mi va benissimo. Quello è, come uno così, quello è. E allora, tanto meglio, visto che quello lo conosco anche adesso come microfono. E pensare che quello lì è arrivato esattamente con quegli attacchi così, l'ho tolto io. Un attimo. Sì. Là io devo chiudere, ciao a tutti, con realmente mi auguro una buonanotte. Ecco, è venuta la signora a dormire, quindi devo chiudere. Sentiamo, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buona giornata per domani, dai, buonanotte con tutto, ce la riascoltiamo le prossime. Grazie. Ciao Gianni, buonanotte, buon lavoro per domani, dai, ci sentiamo presto, vai Natali. Ciao già, buonanotte, buon tutto, alle croce. KGZ, dimmelo quando decidi io te lo. Quando vuoi tu Gianni, vai quando vuoi, no, per me non c'è problema. Vabbè, domani allora lo facciamo. Ok, K, ciao già, buonanotte. Buonanotte. Pierpa, lo sai che cosa facciamo quasi quasi? Mettiamo giù anche noi le serrande. Vuoi tirare giù le serrande? Tiro giù, come vuoi. Kappa, dai, io anch'io adesso, dai, un bel 144 ci sta lavorando, niente, ci sentiamo alle prossime, buon tutto a tutti voi, buonanotte e buon inizio di giornata per domani, ci sentiamo presto, dai, ciao ragazzi. Va bene, ciao, buonanotte Giuseppe, buona giornata per domani. Ce la riascoltiamo tutto domani, dai. Ciao ciao, buonanotte. Natalino, ci sei ancora? Sì, già ci sono, già. Ciao Giuseppe, buon tutto, dai. Saluto a tutti quanti, me ne faccio anche un QRT. Alle prossime, dai. Ciao a tutti. Sì, ciao, buonanotte, Natalino, dai. Parlo anche la nana, dai. Faccio su un totale, faccio due prove, un altro microfono, ma vado anche a nana, dai. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao. Antonio. Sì. Ah, non ci sei. Sì, se ci sono. Dormendo ti stavi? Dov'è? Sono addormentato. Ti sei addormentato? Sì, è mezzo addormentato, vero? Chiudiamo, dai, chiudo allora, provo a provare un microfono, vabbè. Vabbè, provo, no, che mi sono svegliato, dai. E vabbè, dai, lascia perdere, lascia così. No, ho avuto un piccolo calo, ho capito, ma niente di particolare.